Capitolo 3. La terra dei sogni. Hai deciso chi verrà alle tue nozze, Anna? Chiese la signora Rachel Lind, indaffarata con l'orlo a giorno di una serie di tovaglioli. È ora di mandare gli inviti, anche se non sarà una cerimonia formale. Oh, non intendo invitare molta gente, disse Anna. Al matrimonio vogliamo soltanto le persone più care. La famiglia di Gilbert, il signor Allan e la moglie, e il signor Harrison e la moglie. C'è stato un tempo in cui non avresti contato il signor Harrison tra i tuoi migliori amici, disse Marilla in tono ironico. Beh, sì, il primo impatto non fu entusiasmante, ammise Anna, ridendo nel ricordare l'episodio. Ma a conoscerlo, il signor Harrison è meglio di quanto appaia, e la moglie è un tesoro. Poi, naturalmente, ci saranno la signorina Lavender e Paul. Hanno deciso di venire sull'isola quest'estate? Credevo che andassero in Europa. Oh, hanno cambiato idea quando ho scritto che mi sarei sposata. Ho ricevuto una lettera da Paul oggi, dice che non può mancare alle mie nozze e che l'Europa aspetti pure. Quel bambino ti ha sempre idolatrata, commentò la signora Rachel. Quel bambino è ormai un giovanotto di 19 anni, signora Linde. Ah, come vola il tempo! Fu l'osservazione brillante e originale della signora Linde. Forse verrà con loro anche Carlotta IV. Ha mandato a dire tramite Paul che verrà, se il marito glielo consentirà. Mi chiedo se porta ancora quegli enormi fiocchi azzurri e se suo marito la chiama Carlotta o Leonora. Mi farebbe molto piacere che Carlotta venisse alle mie nozze. Ne abbiamo passate di cose insieme tanto tempo fa. Prevedono di essere a Eco Lodge la settimana prossima e poi ci saranno Phil e il reverendo Joe. È un orrore sentirti parlare così di un sacerdote, Anna, disse severamente la signora Rachel. Sua moglie lo chiama così. Allora dovrebbe avere più rispetto per il sacro ministero, ribatté la signora Rachel. Eppure lei non risparmia le critiche ai sacerdoti, signora Linde, disse Anna per provocarla. Sì, ma lo faccio con rispetto, dichiarò la signora Linde. Mai e poi mai mi sentirai dare un nomignolo a un sacerdote. Anna trattenne un sorriso. Beh, poi ci saranno Diana e Fred con il piccolo Fred e la piccola Anna Cordelia e Jane Andrews. Vorrei che ci fossero anche la signorina Stacy, zia Jamesina, Priscilla e Stella, ma Stella è a Vancouver, Pris è in Giappone, la signorina Stacy si è sposata e sta in California. E zia Jamesina è andata in India a esplorare la terra di missione della figlia, nonostante il terrore per i serpenti. È terribile pensare come la gente si sparpaglia per il mondo. Non è nei disegni divini, questo è certo, disse la signora Rachel in tono cattedratico. Ai miei tempi la gente cresceva, si sposava e si sistemava dove era nata o lì vicino. Grazie al cielo, tu l'isola non la molli, Anna. Avevo paura che Gilbert volesse a tutti i costi scapparsene all'altro capo del mondo una volta finita l'università e ti trascinasse via. Ma signora Linde, se tutti restassero dove sono nati, non ci sarebbe più posto per nessuno. Non intendo discutere con te, Anna, non sono laureata io. A che ora sarà la cerimonia? Abbiamo deciso per mezzogiorno, mezzodì, come dicono nelle cronache mondane. Così faremo in tempo a prendere il treno della sera per Glen St. Mary. E ti sposerai in salotto? No, a meno che non piova. Vogliamo sposarci nel frutteto, con il cielo azzurro sopra di noi e la luce del sole attorno. Sa quando e dove mi piacerebbe sposarmi, se fosse possibile? All'alba, un'alba radiosa di giugno con le rose in fiore nei giardini. Scenderei in silenzio incontro a Gilbert e ce ne andremo nel cuore dei boschi di faggi e là, sotto le verdi arcate della magnifica cattedrale naturale, ci sposeremo. Marilla sbuffò con disapprovazione e la signora Linde inorridì. Ma sarebbe una stranezza mai vista, Anna. Non sembrerebbe nemmeno legale. E che cosa direbbe la signora Harmon Andrews? Ah, ecco il nodo della faccenda, sospirò Anna. Quante cose non si possono fare per paura di quello che dirà la signora Harmon Andrews. È vero che è un peccato. Ed è un peccato che sia vero. A volte, Anna, credo proprio di non capirti bene, disse la signora Linde in tono di rammarico. Anna è sempre stata romantica, disse Marilla, come a volerla scusare. Beh, probabilmente il matrimonio la guarirà, fu l'incoraggiante commento della signora Regelind. Anna rise e andò a rifugiarsi nel viale degli innamorati dove fu raggiunta da Gilbert, ma nessuno dei due parve nutrire il timore o la speranza di guarire dalle idee romantiche con il matrimonio. Gli abitanti di Eco Lodge arrivarono la settimana seguente e Green Gables accolse la loro visita con gioiosa agitazione. La signorina Lavendar non era affatto cambiata e sembrava che negli ultimi 3 anni il tempo per lei si fosse fermato. Ma Anna restò senza fiato davanti a Paul. Possibile che quello splendido ragazzone alto 1,80 m fosse lo scolaretto di Avonlea? Oh, mi fai sentire vecchia, Paul, disse Anna. Per guardarti devo alzare la testa. Lei non diventerà mai vecchia, maestra, disse Paul. Assieme a mamma Lavendar fa parte dei fortunati mortali che hanno bevuto alla fontana dell'eterna giovinezza. E guardi che quando sarà sposata non la chiamerò signora Blight, lei per me sarà sempre la maestra che mi ha dato lezioni preziose. Voglio mostrarle qualcosa. Il qualcosa era un libricino di poesie. Paul aveva messo in versi alcune delle sue fantasie. I direttori delle riviste letterarie non si erano mostrati insensibili, come a volte si dice che siano. Anna lesse le poesie di Paul con enorme piacere. Erano suggestive e lasciavano ben sperare per il futuro. Diventerai famoso, Paul. Ho sempre sognato di avere almeno un alunno famoso. Magari un rettore universitario, ma un grande poeta andrebbe ancora meglio. Un giorno potrò vantarmi di aver frustato il celebre Paul Irving. Ma non ti ho mai frustato, vero Paul? Quale occasione mancata. Però mi sembra di averti tenuto in castigo. Ma non sarà lei a diventare famosa, maestra? Ho visto parecchi suoi lavori pubblicati in questi ultimi 3 anni. No, no, no, conosco i miei limiti. So scrivere poesie e storielle fantasiose che piacciono ai bambini e che gli editori pagano bene, ma non sono in grado di comporre niente di grande. La mia unica possibilità di immortalità terrena è in un angolo della tua autobiografia. Carlotta IV aveva eliminato i fiocchi azzurri, ma le lentiggini non erano diminuite. Non avrei mai pensato di arrivare al punto di sposare uno Yankee, signorina Shirley mia, disse. Ma non si sa mai cosa ci aspetta e lui non ne ha colpa se è Yankee. È nato così. Sei una Yankee anche tu, Carlotta, dato che hai sposato uno Yankee. Ah, no, signorina Shirley mia, nemmeno sposando una dozzina di Yankee lo diventerei. Tom non è poi tanto male e ho pensato che era meglio non fare tanto la difficile, perché magari un'altra occasione non mi sarebbe capitata più. Tom non beve e non si lamenta perché deve lavorare dall'alba al tramonto. E per dirla tutta, sono soddisfatta, signorina Shirley mia. Ti chiama Leonora? Chiese Anna. Mio Dio, no! Signorina Shirley mia, non mi parrebbe di essere più io. Naturalmente al matrimonio ho dovuto dire ti prendo in sposa Leonora. E le assicuro, signorina Shirley mia, che da allora ho il dubbio atroce di non essere sposata, perché lui non parlava di me. E così si sposa anche lei, signorina Shirley mia. A me sarebbe piaciuto tanto sposare un dottore, una gran comodità averlo in casa quando i bambini hanno il morbillo o la tosse asinina. Tom invece è un muratore, ma è davvero una pasta d'uomo. Quando gli ho detto, Tom, posso andare alle nozze della signorina Shirley? Ci vado comunque, ma vorrei avere il tuo permesso. Lui ha detto, se va bene a te, Carlotta, va bene anche a me. Fa proprio piacere avere un marito così, signorina Shirley mia. Filippa e il suo reverendo Joe arrivarono a Green Gables il giorno prima delle nozze. Dopo l'entusiasmo dei primi saluti, Anna e Phil si concessero una tranquilla chiacchierata confidenziale sugli avvenimenti del passato e del futuro. Regina Anna, sei regale, come sempre. Io sono terribilmente dimagrita dopo la nascita dei bambini. Non sono più bella come un tempo, ma credo che a Joe non dispiaccia. Così non c'è troppo contrasto tra noi. Oh, è semplicemente meraviglioso che tu sposi Gilbert. Roy Gardner non sarebbe assolutamente andato bene per te. Ora lo capisco, anche se rimasi molto delusa allora. Sai, Anna, hai davvero trattato male Roy? Beh, si è ripreso bene dal colpo, a quanto sento, disse Anna sorridendo. Oh, sì, si è sposato e sua moglie è un tesoro e sono felici. Tutto concorre al bene. Lo dicono Joe e la Bibbia, sono vere autorità in materia. Alec e Alonso sono sposati? Alec sì, ma Alonso no. Oh, Anna, con te mi tornano alla mente i bei tempi di Patty's Place, come ci divertivamo. Sei stata a Patty's Place ultimamente? Oh sì, ci vado spesso. La signorina Patty e la signorina Maria fanno ancora la maglia davanti al caminetto. Ah, giusto, ti abbiamo portato un regalo di nozze da parte loro, Anna. Indovina cos'è? Oh, non so proprio. Come sapevano che stavo per sposarmi? Gliel'ho detto io. Sono andata da loro la settimana scorsa ed erano entusiaste. 2 giorni fa la signorina Patty mi ha scritto un biglietto pregandomi di passare da loro e poi mi ha chiesto di portarti il regalo. Quale oggetto ti piaceva di più a Patty's Place, Anna? Oh, non vorrai dirmi che la signorina Patty mi ha mandato i cani di porcellana. Indovinato. Ce li ho giù nel baule e ho una lettera per te. Aspettami un attimo. Cara signorina Shirley, aveva scritto la signorina Patty, Maria e io abbiamo appreso con vero piacere la notizia delle sue imminenti nozze. Le inviamo i nostri migliori auguri. Maria ed io non ci siamo mai sposate, ma non abbiamo nulla in contrario che lo facciano gli altri. Le inviamo i cani di porcellana. Pensavo di lasciarglieli in eredità, perché mi sembrava sinceramente affezionata a loro. Ma Maria ed io intendiamo vivere ancora a lungo, a Dio piacendo, così ho deciso di darle i cani finché è ancora giovane. Spero non abbia dimenticato che Gog guarda a destra e Magog a sinistra. Che gioia pensare che avrò i 2 bei cani davanti al caminetto nella casa dei miei sogni, disse Anna con entusiasmo. Non mi sarei mai aspettata una sorpresa simile. Quella sera Green Gables ferveva dei preparativi per il giorno seguente, ma al crepuscolo Anna uscì di casa. Doveva compiere un pellegrinaggio prima di sposarsi e compierlo da sola. Si recò alla tomba di Matthew, nel piccolo cimitero di Avonlea ombreggiato dai pioppi, e ravvivò vecchi ricordi e affetti immortali. Come sarebbe felice domani Matthew se fosse qui, bisbigliò. Ma io credo che lo sappia e che sia contento lassù. Ho letto da qualche parte che i morti non muoiono finché vengono ricordati, e per me Matthew non morirà mai, perché non potrò mai dimenticarlo. Lasciò sulla tomba i fiori che aveva portato e si incamminò lentamente giù per la collina. Era una serata dolce, piena di luci e ombre suggestive. A ovest il cielo era disseminato di pecorelle, nubi cremisi e ambra con squarci di cielo verde mela. All'orizzonte brillava lo scintillio radioso del mare al tramonto e la voce incessante delle acque saliva dalla spiaggia bruno-dorata. Attorno, immersi nel silenzio della campagna, c'erano i colli e i campi e i boschi che conosceva e amava da sempre. «La storia si ripete», disse Gilbert, raggiungendola al cancello dei Blight. «Ricordi, Anna, la nostra prima passeggiata su questa collina? La prima passeggiata che abbiamo fatto insieme?» «Era il crepuscolo. Tornavo a casa dopo aver visitato la tomba di Matthew e tu venisti al cancello». Allora vinsi l'orgoglio di tanti anni e ti parlai. E a me parve di salire in cielo, aggiunse Gilbert, e da quel momento guardai con fiducia al futuro. Quella sera, quando ti lasciai al cancello di Green Gables, ero il ragazzo più felice del mondo. Anna mi aveva perdonato. Eri tu che avresti dovuto perdonarmi. Fui proprio ingrata con te, soprattutto dopo che mi avevi salvato la vita sul laghetto quel giorno. Come detestavo quel debito. Non merito la felicità che mi è toccata. Gilbert rise e strinse più forte la piccola mano che portava il suo anello. L'anello di fidanzamento di Anna era un cerchietto di perle. Si era rifiutata di portare un brillante. Non mi sono mai piaciuti i brillanti da quando ho scoperto che non avevano la stupenda tinta viola che immaginavo. Mi ricorderanno sempre la mia delusione. Ma le perle portano lacrime, dice il vecchio adagio. Era stata l'obiezione di Gilbert. Oh, non le temo. E si può piangere di gioia, oltre che di dolore. I miei momenti di maggiore felicità sono stati quelli in cui avevo gli occhi pieni di lacrime. Quando Marilla mi disse che potevo restare a Green Gables, quando Matthew mi diede il primo abito carino che avessi mai avuto in vita mia, quando seppi che stavi guarendo dalla febbre. Dammi un anello di perle come pegno di amore, Gilbert, e accetterò volentieri il dolore che la vita mi porterà assieme alla gioia. Ma quella sera i nostri fidanzati pensavano solo alla gioia e non al dolore. L'indomani era il giorno delle nozze e la casa dei loro sogni li attendeva sulla nebbiosa spiaggia violetta della baia di Four Winds. Capitolo 4. La prima sposa di Green Gables. La mattina delle nozze, Anna si svegliò con il sole che batteva alla finestra della baina e una brezza settembrina che scompigliava le tendine. «Sono felice di sposarmi alla luce del sole», pensò con gioia. Ricordò il primo risveglio in quella stessa stanzetta, quando i raggi del sole si erano insinuati tra la bianca fioritura della regina delle nevi. Non era stato un risveglio felice, perché aveva rinnovato l'amara delusione della sera precedente. In seguito quella stanzetta le era diventata cara ed era stata consacrata al suo affetto dai felici sogni dell'infanzia e dalle radiose attese della giovinezza. Qui era sempre tornata con gioia dopo i periodi di assenza. A questa finestra si era inginocchiata nella lunga notte di tormento in cui credeva Gilbert in agonia e davanti a questa stessa finestra era rimasta in estasi la sera del fidanzamento. Aveva trascorso molte veglie di gioia e alcune di dolore. Oggi l'avrebbe lasciata per sempre. Non sarebbe più stata sua. La quindicenne Dora doveva ereditarla alla sua partenza. Anna era la prima a volerlo. La stanzetta non poteva appartenere che a una ragazza. Era un tempo di quel passato che oggi si sarebbe chiuso, dando inizio al capitolo della sua vita di donna. Green Gables ferveva di gioiosi preparativi. Diana arrivò presto con il piccolo Fred e la piccola Anna Cordelia per dare una mano. Davy e Dora, i gemelli di Green Gables, dirottarono subito i bambini in giardino. «Attenti che la piccola Anna Cordelia non si sporchi», raccomandò Diana. «Puoi affidarla tranquillamente a Dora», disse Marilla. «Quella ragazzina ha più buon senso e attenzione di molte madri, posso dire che è proprio una perla. Al contrario dell'altro scavezzacollo che ho allevato, va». Marilla sorrise ad Anna dando gli ultimi tocchi al piatto di pollo freddo. Era facile intuire che forse preferiva proprio lo scavezzacollo. «I gemelli sono due ragazzi come si deve», disse la signora Rachel, non appena fu certa che non potesse sentirla. «Dora è assennata e servizievole e Davy sta diventando un ragazzo in gamba. Non è più la peste di una volta». «In vita mia non sono mai stata sconvolta come nei primi 6 mesi che è stato qui», ammise Marilla. «Evidentemente dopo mi ci sono abituata. Gli è venuta una gran passione per l'agricoltura ultimamente e vuole che l'anno prossimo lo lasci tentare di mandare avanti la fattoria. Forse lo farò, perché il signor Barry non ha intenzione di prenderla in affitto ancora per molto e una decisione, andrà presa». «Beh, hai davvero una giornata magnifica per le tue nozze, Anna», disse Diana, indossando un ampio grembiule sopra l'elegante abito di seta. «Nemmeno ordinandola da Eton potevi averla così bella». «Eh già, fin troppo denaro prende il volo dall'isola per finire a Eton», disse la signora Linde con indignazione. Aveva idee ben precise a riguardo dei tentacolari grandi magazzini e non perdeva mai occasione per esternarle. «Dico io, quei cataloghi sono diventati il Vangelo per le ragazze di Avonlea. Alla domenica se li divorano invece di studiare le sacre scritture». «Beh, sono fantastici per far divertire i bambini», disse Diana. «Fred e la piccola Anna Cordelia passano ore a guardare le illustrazioni». «I miei 10 figli li ho divertiti senza l'aiuto del catalogo di Eton», disse la signora Rachel severamente. «Su, su, non bisticciate per il catalogo di Eton», disse Anna allegramente. «Questo è il giorno più bello della mia vita. Sono felice e tutti voi dovreste essere felici con me». «Spero tanto che questa felicità duri, bambina mia», disse la signora Rachel con un sospiro. Lo sperava e credeva che fosse possibile, ma le sembrava quasi una sfida al destino ostentare la felicità. Per il suo bene, Anna andava un po' ridimensionata. Ma fu una sposa bella e felice quella che in un mattino di settembre scese le scale di Green Gables, coperta di tappeti fatti in casa. Era la prima sposa di Green Gables, snella e raggiante, avvolta nella nuvola del velo nuziale e con le braccia cariche di rose. Gilbert, che l'attendeva nel vestibolo, alzò su di lei uno sguardo pieno di adorazione. Era finalmente sua, quell'Anna sfuggente e sospirata, conquistata dopo anni di paziente attesa. Ora veniva alla dolce resa nuziale. Lui la meritava? Avrebbe saputo renderla felice come desiderava? E se l'avesse delusa? Se non fosse stato per lei un marito all'altezza delle aspettative? Lei gli tese la mano e i loro occhi si incontrarono. Allora ogni dubbio svanì, lasciando il posto a una gioiosa certezza. Erano l'uno dell'altra e questo i casi della vita non potevano modificarlo. La felicità di ciascuno dei due risiedeva nell'altro ed essi non avevano paura. Si sposarono nel frutteto soleggiato, circondati dall'affetto delle persone care. Li sposò il pastore Allan e il reverendo Joe pronunciò un'omelia che, a detta della signora Rachel Lind, era il più bel discorso nuziale mai ascoltato. Gli uccelli non cantano spesso a settembre, ma un uccellino nascosto tra le fronde intonò un dolce canto quando Anna e Gilbert si scambiarono la promessa. Anna lo sentì e ne fu estasiata. Anche Gilbert lo sentì e si stupì che tutti gli uccellini del mondo non si fossero uniti in un coro di giubilo. Lo sentì Paul e scrisse poi una poesia che fu tra le più ammirate del suo primo volume di versi. Lo sentì Carlotta IV e ne ricavò l'assoluta convinzione che significasse ogni bene per la sua adorata signorina Shirley. L'uccellino cantò fino alla fine della cerimonia, poi concluse con un acutissimo e breve trillo di felicità. Mai la vecchia casa grigio-verde, racchiusa nell'abbraccio dei frutteti, aveva conosciuto pomeriggio più allegro e gioioso. Vennero rispolverati tutti i vecchi frizzi e le arguzie ammannite ai matrimoni dai tempi dell'Eden e parvero nuovi e divertenti, come se non fossero mai stati pronunciati prima. Allegrie e risate la fecero da padroni e quando Anne e Gilbert partirono, accompagnati da Paul, per andare a prendere il treno di Carmody, i gemelli erano già pronti con riso e scarpe vecchie. Carlotta IV e il signor Harrison contribuirono efficacemente al lancio. Marilla, ferma al cancello, osservò allontanarsi il carrozzino lungo il viale bordato di verga d'oro. In fondo, Anna si voltò a salutare. Era andata via per sempre. Green Gables non era più casa sua. Marilla aveva il volto terreo e scavato quando rientrò nella casa che per 14 anni Anna aveva riempito anche durante le assenze di luce e di vita. Ma Diana e i bambini, la gente di Ecologe, gli Allan erano rimasti per aiutare le due anziane signore a superare la solitudine della prima serata. Consumarono una tranquilla cenetta e restarono a lungo a tavola commentando i vari dettagli della giornata. Intanto Anna e Gilbert scendevano dal treno a Glen St. Mary.